Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata come sempre in cui avremo anche la nostra poco invidiabile classifica, poi parleremo anche dei temi di cronaca, anche la vicenda Vivendi Mediaset. In realtà è una vicenda più di carattere giudiziario oggi, ma riguarda il valore del titolo Mediaset, l'operazione Vivendi su Mediaset, come vi hanno ricordato i nostri GR24. Parleremo poi anche del cosiddetto Made in Italy con un osservatore speciale di questo, ossia chi ha gestito un gruppo enorme italiano proprio nella presenza sui mercati internazionali, e mi riferisco all'ex numero uno di Luxottica Andrea Guerra, attualmente numero uno di Italy, ma non tanto per capire le strategie di Italy, per quanto abbia fatto l'accordo in Russia, quanto per capire che cosa manca e come sta andando il nostro Medinitri, ma cosa manca ad alcune strategie in un periodo di grande retorica su dazi e protezionismo. Partiamo dalla borsa, però, che oggi è, per quello che riguarda Milano, negativa di uno 0,90%, che è identico al calo di Parigi. Peggio fa Francoforte, meno 1,22%, Londra mezzo punto percentuale, Dow Jones meno 0,17%. Pesano alcune trimestrali, oltre al caso Vivendi Mediaset, ma per quello che riguarda, penso per esempio a Saipem, i conti più che altro preoccupano soprattutto le indicazioni sui portafoglio ordini. Il titolo perde parecchio, meno 6,65%, Banco BPM meno 5,80%, poi Mediobanca meno 3%, Fiat Chrysler meno 2,50% come Brembo, UbiBanca meno 2,30% come Intesa San Paolo, Buzzi Unice meno 2% come Mediolanum. Bene, soprattutto Leonardo ex Fimeccanica, conti in linea con le attese e indicazioni prese positivamente dal mercato sul piano da qua al 2019, Enel più 1,26%. Tra l'altro faccio notare che sale anche Salini in pregiro. Ieri abbiamo avuto ospite Pietro Salini proprio in contemporanea con la diffusione dei dati, anche per le nuove commissioni, le nuove commesse, scusatemi, e le indicazioni arrivate dalle commesse negli Stati Uniti, il titolo guadagna il 4,76% in questo momento. Dicevo, parleremo di borsa, ma anche della nostra poco invidiabile classifica. Ricorderemo anche, come stanno facendo i nostri GR24, i sei mesi, ahimè, dalla prima scossa di terremoto, poi ce ne sono state altre e non tutte localizzate, come ben sappiamo, in quell'area, anche con un elemento in qualche modo polemico, perché per chi se lo fosse perso vorrei far riascoltare l'intervista a un sindaco delle aree colpite, in cui dice semplicemente: fateci sapere a chi dobbiamo rivolgerci, comune, provincia, regione, stato, protezione civile. E devo dire che, al di là della gestione emergenziale, io non capisco, anche oggi consegnate due casette, adesso controlleremo quanto, però io non capisco il perché di questa lentezza, ma arriveremo con calma a tutto. Dicevamo, per quello che riguarda il resto della giornata economico-finanziaria non c'è moltissimo, oltre appunto la vicenda Vivendi Mediaset. L'interessante c'è il fatto che la posizione negoziale, mi riferisco alla Brexit, del responsabile europeo della vicenda Brexit, Michel Barnier, è molto dura, o meglio una linea dura, che è sostenuta da Italia e da Germania, questa volta unite, ossia nessuna trattativa su eventuali accordi commerciali con la Gran Bretagna fino a quando il governo britannico non darà garanzia sul pagamento di un conto da 60 miliardi, così iniziamo a capire cosa succede, non chi esce dall'euro ma chi esce dall'Unione Europea, per l'uscita dell'Unione Europea. È un approccio abbastanza combattivo: non accetteremo gusci vuoti o buche delle lettere nelle quali le attività continuano ad essere portate avanti a Londra. E su questo, tra l'altro, si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su R DS, oggi a firma del vice direttore Alessandro Paterotti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Alles auf einmal, è così che si dice in tedesco, tutto e subito, atteggiamento storico e tipico della Germania, ma questa volta è anche un po' curioso, visto che a dirlo è stato il numero 2 della Bundesbank, la banca centrale tedesca, Andreas Dombrovskis. Ma che cosa ha detto? A Londra, per una conferenza con il mondo degli affari, Dombrovskis ha detto che anche dopo Brexit l'ultima cosa che devono pensare le banche e le società finanziarie è quella di fare un turismo fiscale o quantomeno un turismo finanziario. In altre parole, la Germania non è disposta ad accettare banche, assicurazioni e società finanziarie che trasferiscono gli uffici in Germania, perché a Londra c'è la Brexit, a meno che non si trasferiscano in toto anche le sedi legali. In altre parole, o vogliamo tutto o non vogliamo niente. Beh, insomma, è un modo un po' curioso questo di leggere, soprattutto per quale motivo? Soprattutto perché la Brexit è ancora lontana e qui non si sa di che cosa stiamo parlando, soprattutto perché sia il futuro inquadramento giuridico che commerciale che si avrà con l'Inghilterra è ancora tutto da scrivere. Ma al di là di questo, ogni nazione ha pensato di prendersi qualche cosa dalla piazza finanziaria londinese, il momento che arriverà il divorzio vero e proprio dall'Europa, ma anche noi abbiamo fatto la stessa cosa. Una corsa sfrenata, certamente la nostra competitività rispetto a quella dei tedeschi quanto a piazza finanziaria è un po' scarsa, ma gli sforzi che sono stati fatti da anni ormai per potenziare soprattutto quella milanese potrebbero dare risultati. Insomma, non si sa se ci sarà un derby su chi prende le spoglie della City, anche perché di spoglie è presto per parlarne, anche per un altro motivo: i capitali vanno dove trovano le migliori condizioni e non è detto che le migliori condizioni anche prossimi anni siano quelle dei tedeschi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora andiamo avanti con le altre notizie. In breve si parleremo, l'ho già detto, della vicenda Mediaset. Vivendi è indagato per aggiotaggio, sia Vincent Bolloré è indagato dalla Procura di Milano in relazione all'operazione con la quale Vivendi ha acquistato il 28% di Mediaset. Questo dopo una denuncia alla Procura di Fininvest, che ha quasi il 40% di Mediaset. Secondo la denuncia di Fininvest, Vivendi aveva creato le condizioni per far scendere il titolo. Ricorderete quando Vivendi ruppe abbastanza sorpresa l'accordo per acquistare Premium, in modo da poterlo comprare a prezzi di sconto e scalare appunto Mediaset. Indagato anche il numero 1, l'amministratore legato di Vivendi, e mi riferisco a Arnaud de Puyfontaine, e appunto l'indagine affidata al procuratore Francesco Greco dopo l'esposto dello scorso dicembre di Mediaset. Allora, il fatturato dell'industria italiana a dicembre più 2,6%, nel 2016 ha fatto più 0,2% il fatturato dell'industria, quindi sostanzialmente stabile. Bene gli ordinativi industriali, del 2,8% cresciuti a dicembre. Invece cala la fiducia dei consumatori a febbraio, qui il dato di febbraio, cresce solo un po' per le imprese da 103 a 104 punti, ma quello delle persone e quindi il clima economico e le opinioni sul futuro continuano a peggiorare da gennaio anche a febbraio da 108 a 106 punti. Allora andiamo rapidamente, perché oggi abbiamo molti temi, alla nostra poco invidiabile classifica. Non mi resta che ricordare il numero per SMS e WhatsApp: 349 238 6666, sia per gli SMS che per WhatsApp. E poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Visto però che al quinto posto ci sarà una notizia legata al terremoto, una notizia che se non stessimo oggi ricordando i 6 mesi dalle prime scosse e con quello che ne è conseguito, verrebbe voglia proprio di ridere. Il problema è che non c'è nulla da ridere, però per ricordare anche noi la situazione dei comuni, dei primi comuni colpiti. Oggi il premier Gentiloni è a San Pellegrino di Norcia, stamattina però a 24 mattino, quindi nel programma di Alessandro Milan, il sindaco di Visso, Giuliano Pazzaglini, ha detto una cosa molto drammatica nella sua banalità: in queste condizioni la ricostruzione è impossibile. La classifica della settimana. Allora, prima punto di partito la classifica, vorrei ascoltare le parole, se ci riusciamo, del sindaco di Visso, Giuliano Pazzaglini. Quando parti male non può che continuare peggio, quindi si è costruito un insieme di disposizioni che di fatto stanno ostacolando la ricostruzione, ma anche quella semplice riguardante le esigenze immediate che potevano essere le stalle. E tutto questo perché c'è un costrutto che non funziona. Innanzitutto, a mio avviso, si è invertito l'ordine naturale delle cose, facendo sì che ora i comuni dovrebbero addirittura fare le schede FAST, quelle di rilevazione dei danni, e l'ufficio speciale per la ricostruzione ricostruire, cosa che sta dimostrando quotidianamente di non essere in grado di fare. Allora riportiamo il tutto nell'ordine naturale. Gli enti pubblici, quindi nel caso specifico i comuni, ricostruiscono il pubblico, la regione controlla e la struttura di vertice, che sia commissario o che sia capo di dipartimento di protezione civile, però per cortesia datemene uno, perché altrimenti non so con chi devo parlare, controllassero quello che stiamo facendo. Si è buttato via il bambino, si è buttata via l'acqua sporca e si stanno buttando via le nostre comunità. La classifica della settimana. Allora, partiamo adesso col quinto posto, ma io dico, ma è così difficile? Invece che continuare a fare le visite, va benissimo che il premier Gentiloni vada a San Pellegrino di Norcia, alcuni l'hanno criticato per la sua assenza dopo gli ultimi fatti, mi riferisco a Rigopiano, ma insomma va benissimo, fate gli incontri, fate quel cavolo che volete, ma potete dare ai comuni un'indicazione chiara? Insomma, allora, la responsabilità del comune è fare la parte comunale, poi la regione andrà a vigilare, la protezione civile, ma non mi sembra una richiesta così strana, porca d'una miseria, si riesce a dire chi deve operare, chi deve fare che cosa, invece di tanta retorica su ste casette che mi fa anche schifo, e l'abbiamo già detto, che le casette vengono consegnate col contagocce. Io quando ho visto all'inizio la notizia pensavo fossero delle case così tante da dire, allora non arriveranno tutte su, ma stiamo parlando di qualche decina di casette, con quello che raccontiamo da 3 anni di sprechi, e vedremo anche oggi di regioni, comuni, quant'altro. Allora, dicevo, ci sarebbe, sì, ho visto anche le foto dei cimiteri con le bare abbandonate, ho visto tutto, seguiamo la vicenda, mi dico, ma per favore. Allora, ci sarebbe da ridere, è che quando parli di terremoto non c'è nulla da ridere, per quello che abbiamo scoperto essere successo al comando operativo avanzato dei vigili del fuoco di Norcia. Non è che proprio stiamo parlando di Norcia, eh? Allora, 3 febbraio 2017, scrive l'ingegner Gianfrancesco Monopoli, che del comando operativo avanzato di Norcia. La disposizione dell'ingegner Gianfrancesco Monopoli recita il titolo: trasmissione linee guida procedure di sicurezza, stampigliatura ufficiale del Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Benissimo, che cosa scrive dentro? Scrive: per facilitare il lavoro di interpretazione e di immediato riconoscimento di eventuali scosse sismiche, cioè per capire se sta arrivando il terremoto e se le scosse, la sentinella, vigile del fuoco comunque, potrà essere dotata di contenitore trasparente riempito di acqua, non sto scherzando, ogni oscillazione non dovuta da eventi legati all'attività operativa in corso sarà segnale di evento sismico In caso di scosse ed eventi incidentali, la sentinella, ma che cavolo è, Fort Alamo, avvisa l'unità di comando locale competente territorialmente, richiedendo, se necessario, l'invio di ulteriori risorse, non meglio specificate, cioè altri sacchetti d'acqua, altri liquidi o un sismografo. Ma stiamo scherzando? Ma dico, ma ingegnere, ma lei non, il senso del ridicolo nel momento in cui dice ai vigili del fuoco che l'acqua ce la devono avere sempre i vigili del fuoco, ma dico che devono girare con un sacchetto trasparente pieno di acqua, che poi uno dice, ma siamo sicuri che sia solo l'acqua, ci si può mettere qualunque altro liquido, perché uno può, si può anche sbizzarrire con idee strane, e quando a ogni oscillazione non dovuta da eventi legati all'attività operativa, ma che cavolo vuol dire? Cioè, nel senso che se te la porti appresso l'evento legato all'attività operativa è che stai camminando, oppure la metti da qualche parte e non capisco gli eventi di attività operativa, ma poi cosa fa la sentinella? Guarda costantemente l'acqua, poi magari si sposta al tavolo, dai un calcio, non sai, avviso che c'è una scossa sismica oppure no? No, ma mettiamoci anche un pesce rosso dentro, ingegnere, che fa più carino, tanto... Ma io quando l'ho letta non ci credevo, data 3 febbraio 2017, giustamente sono furibondi, in questo caso giustamente i sindacati dei Vigili del Fuoco, dice, ma insomma, ma è denigrante dover leggere queste cose sapendo anche che è un dirigente a scriverle. Siamo umiliati da certe disposizioni, ma voi ve le immaginate i Vigili del Fuoco che girano con la sacchettina d'acqua trasparente, un modello catetere? Ma io dico, ma porca miseria, ma lo scrivi pure, no, ma veramente, ma rimuovete il dirigente, ma dico, ma solo per manifesta incapacità del senso del ridicolo, in zone che hanno ancora i morti, in alcuni casi, ahimè, da riseppellire, visto che parlavamo di bare, fai girare i vigili del fuoco con sacchettino d'acqua che metti lì e a seconda che si muova, ma non deve muoversi per attività operative? Ma voglio dire, ma riempiamolo di acqua, dai. Veramente, vabbè. Andiamo al quarto posto, e qui andiamo anche sulla cronaca, perché stavamo sistemando la classifica e invece la cronaca è più forte anche della classifica, perché come alcuni avranno sentito nel GR24, io non li voglio più chiamare furbetti del cartellino, ok? Sono ladri di lavoro, sono truffatori, perché furbetti del cartellino è furbetto, basta, anche le agenzie, i colleghi, furbetti del cartellino, perché è un ladro quello, no? Falsifica l'ingresso, ruba lavoro, non svolge il suo servizio per collettività e io gli pago lo stipendio. Allora, partiamo dalle ultime. A Gorizia, sospesi due medici, uscivano dalla porta di sicurezza per non dare sospetti. Si allontanavano dalla porta di lavoro, dall'uscita di sicurezza, a bordo delle proprie auto, parcheggiate a pochi metri, dopo essere stati in banca, al ristorante o a fare shopping o nel proprio studio privato, rientravano dalla stessa porta di emergenza. Sospesi appunto per un anno dal GIP del capoluogo isontino. Ma la cosa più grave riguarda invece Napoli, o meglio, gli carabinieri del NAS hanno fatto un blitz all'ospedale Loreto Mare di Napoli. 55 persone, fra medici, infermieri, personale tecnico e amministrativo e operatori sociosanitari, tutti raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, su richiesta appunto della locale procura della Repubblica. Complessivamente sono 94 le persone indagate. Uno dei dipendenti addirittura, ma qui siamo abituati a tutto, dopo il porno attore assenteista a sua insaputa abbiamo visto comunque, però uno dei dipendenti durante l'orario di servizio, stiamo parlando di un ospedale, andava a fare lo chef in una struttura alberghiera del Nolano. Capisci che poi i drammi che creano tutti questi reality di cucina poi colpiscono anche il mondo dell'assenteismo. Un altro invece durante l'orario di lavoro andava a giocare a tennis o a fare spesa. Allora, ad alcuni di questi 55 dipendenti, oltre che al reato di truffa aggravata, viene anche contestato il reato di accesso abusivo ai sistemi informatici del nosocomio, perché avevano cancellato le ore di lavoro che avrebbero dovuto recuperare e aggiunto ore di straordinario non prestate. Cioè, non solo andavano a giocare a tennis, a fare il cuoco a Nola o a fare spese, ma alteravano pure il computer sulle presenze. Addirittura anche dei sindacalisti di CGL e CISL che sono stati arrestati Dicevo anche dei sindacalisti che, secondo fonti interne dell'ospedale, sarebbero stati coinvolti nella gestione dei badge marcati abusivamente. Tira una bruttissima aria, dice un'agenzia, un infermiere che vuole restare anonimo. Oggi nelle parti ci sono dei vuoti. Ma gli chiedono: ma si sapeva dell'assenteismo massiccio tra di voi? Certo che si sapeva. E chi si assentava soprattutto? Medici, infermieri, amministrativi, tutti. No, non per l'intera giornata, per qualche ora. Questo ospedale sta morendo. Da quando ha aperto un nuovo ospedale nel mare è smobilitazione. Allora, praticamente, se uno capisce che gli infermieri, i medici, l'amministrativa erano tutti a farsi i cavoli loro, in quell'ospedale lì restavano solo i malati che hanno difficoltà di deambulazione delle volte. Dice Vincenzo De Luca, presidente della Campania: saremo inflessibili con contro chi non fa il proprio dovere. Della vicina ho già parlato con il direttore generale dell'ASL. Il sindaco di Napoli, De Magistris, è una pagina vergognosa, ne viene fuori un'immagine devastante, inaccettabile e inqualificabile. Fermo restando ovviamente, premessa doverosa, la presunzione di non colpevolezza, l'immagine che viene fuori è devastante, inaccettabile e vergognosa, veramente inqualificabile quello che abbiamo letto stamattina, cioè, sono numeri che veramente lasciano attoniti, non può essere che persone, come dire, che devono garantire la salute pubblica invece di stare a lavorare vanno a fare altro. Ripeto, ovviamente fermo restando che bisogna capire se i fatti che stanno venendo fuori sono veri, ma se sono veri mi auguro che ci siano subito dei provvedimenti davvero forti, perché ci sono tanti medici e tanto personale sanitario che lavora in condizioni difficili, certe volte in modo eroico, ci sono pazienti che non riescono a essere curati, ci sta una politica che sulla sanità ha mangiato, poi c'è gente che invece di lavorare va a giocare a tennis o va a fare il cuoco, è davvero qualcosa che non si può leggere, fa proprio male, fa male al cuore e fa male al portafoglio perché i soldi sono pochi. Ho d'accordo con De Magistris, avrei aggiunto fa male anche in altre parti, fa girare altre parti. Tra l'altro qualcuno mi scrive: ma invece che metterli ai domiciliari, adesso non esiste nella legge italiana, però è vero che una bella punizione sarebbe farli lavorare per i prossimi settimane, mesi, gratis ovviamente, con l'orario di lavoro, nessuno vuole diventare uno schiavista, che lavorano gratis, recuperano tutto, stanno lì e intanto va avanti il processo. Ma perché i domiciliari? I domiciliari, poi quello, capito, continua a fare ricette di cucina, l'altro gioca a tennis con la pallina contro la parete e via così. Addirittura giocavano a bridge, ho visto bene, i sindacalisti, cioè c'erano partite di bridge dentro l'ospedale. Comunque mi stanno scrivendo anche molti sindacalisti infuriati con i loro tra virgolette colleghi, non ho mai detto infatti che, e ha ragione De Magistris nel dire che questo, oltre che essere un danno allo Stato, un danno in primo luogo al paziente, è anche un danno ai colleghi che il lavoro lo fanno e devono supplire questi, ripeto, chiamateli ladri, non chiamiamoli più furbetti, ladri, truffatori, è furbetto, nel paese in cui furbo è quasi un complimento. Però dopo il merito della pubblicità resteremo con De Magistris, abbiamo appena detto che ha ragione, poi ci deve spiegare una cosa il sindaco di Napoli: com'è possibile che il comune di Napoli riesca a non guadagnare, a perdere decine e decine di migliaia di euro ogni anno in quella che, anche qui, come la chiamiamo, affittopoli, la chiamiamo furto, la chiamiamo, diciamo, prezzi inaccettabili, o meglio affitti inaccettabili per palazzi di pregio. Dopo il meteo. Focus Economia. La classifica della settimana. 17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Andiamo a questo punto al terzo posto. Allora, secondo voi quanto costa affittare a Napoli un appartamento, un bilocale che ha la vista sull'isola di Capri, a sinistra Sorrento, i Monti Lattari, il Colle Sant'Alfonso, le Torri del Greco, il Vesuvio, il Lungomare, il Castel dell'Ovo, insomma, cioè, che si affaccia su via Posillipo? Allora, ve lo dico io, perché costa più o meno, il bilocale vale circa 370.000 euro e costa 1.200 euro al mese nel mondo degli affitti napoletani. Ma se la casa del comune di Napoli, eh no, allora cambia tutto, perché l'affittopoli napoletana, di cui dovrà occuparsi, spero anche in questi minuti, il sindaco De Magistris, fa perdere al comune di Napoli milioni di euro ogni anno. La Corte dei Conti ha aperto un'indagine su 18 immobili di prestigio tra Palazzo Reale, Villa Pignatelli e la Floridiana, quasi tutti dalla sovrintendenza dei beni artistici. I canoni di locazione fanno perdere all'ente statale, in questo caso la sovrintendenza, 240.000 euro, ma non ci sono solo i locali della sovrintendenza. La sovrintendenza del comune di Napoli comunque una risposta ce la può anche dare: come mai perde 240.000 euro all'anno che potrebbero servire per fare altre cose? No, ci sono anche quelle del comune. Allora, i magistrati hanno tra le mani un elenco di oltre 30.000 abitazioni e 300 condomini. Sapete quanto paga Vista Mare a Posillipo, la famosa casa di qui sopra? Invece che 1.200 euro al mese, che è più o meno il prezzo d'affitto per un immobile del genere, paga 39 euro e 3 centesimi al mese. Tant'è che converrebbe con un bel bollettino postale all'affittuario pagare tutto l'anno in una rata. Io ho fatto il conto, sono 470 euro, cioè meno di quanto paghi un monolocale in aree meno private per tutto l'anno, con 1,50 euro in effetti di bollettino postale. Questo cambia un po' la media. Allora, c'è anche un bilocale nel cuore del Vomero, via Morgan, 51 euro e 31 al mese di affitto. Via dell'Eremo, per chi conosce Napoli c'è una vista pazzesca sulla città, poco meno di 40 euro al mese. Poi c'è via Cappella Vecchia, nella parte di Chiaia, che è una zona, anche qui, per chi conosce la città, piena di bar, ristoranti, giovani, insomma, molto mossa. Piazza dei Martiri, casa per tre persone, beh, questo è pazzesco, 11 euro e 12 centesimi al mese, c'è uno spritz. Poi decine di appartamenti fuori grotta, zone in via Leopardi che non superano i 120 euro di canone mensile, un bilocale di 60 metri quadri in zona paga 9 euro e 3 centesimi al mese, 120 euro all'anno, ma vabbè. Dunque, il comune di Napoli ha 60.000 immobili, 30.400 sono abitazioni, il resto sono locali, depositi, rustici, terreni e quant'altro. Fino a 5 anni fa, da chi era gestito? Questo per dire che la colpa non è solo o tanto di De Magistris, ma lui ci deve mettere mano. Era gestita da Alfredo Romeo, un personaggino tranquillo, infatti era lui che gestiva il patrimonio dell'intero comune di Napoli. Alfredo Romeo, imprenditore. Immagino che l'ex sindaco Bassolino non ne sapesse nulla di tutto questo, un po' strano però che un sindaco non sappia chi gli gestisce gli immobili. Comunque Alfredo Romeo, imprenditore, è attualmente indagato per concorso esterno in associazione camorristica, ma voglio... e chi se ne frega, no? Dal 2012 la gestione è affidata alla società Napoli Servizi, ed è la Napoli Servizi che ha stilato la lunga lista degli sprechi, dei mancati incassi, e la stessa che stanno redigendo poi i finanzieri, i magistrati della Corte dei Conti della Campania. De Magistris, sono tanti soldi lì. Poi sarebbe anche interessante vedere a chi li avete dati questi appartamenti, non lei, le giunte precedenti, a 10 euro al mese d'affitto, a 20 euro al mese d'affitto, a 30 euro al mese d'affitto. Andiamo al secondo posto. Dite i nomi dei locatari, non ce l'abbiamo il nome dei locatari, capito? Per cui... a proposito dei comuni, c'è una classifica, purtroppo riguarda il 2013, ma è molto interessante perché mette assieme quello che è il costo standard per i servizi offerti e quanto spende il comune. Allora qui abbiamo, lo dico prima di leggere questa classifica, sostanzialmente quattro tipologie. I comuni virtuosi e basta, cioè riescono a offrire servizi a un costo più basso del costo standard riconosciuto dallo Stato. I comuni, sembra un po' la legge degli stupidi di Cipolla, comunque, i comuni invece virtuosi ma che spendono di più, cioè riescono a offrire gli servizi ma a dei costi superiori al costo standard. Poi c'è la terza categoria, i comuni che hanno costi dentro i costi standard, ma perché offrono servizi più bassi, e la metto al terzo posto perché insomma preferisco comunque un servizio. E poi c'è la quarta categoria: chi non riesce a offrire servizi e ha costi più alti dei costi standard. Allora, partiamo dall'ultima. Caserta spende il 40% in più di quanto dovrebbe. Reggio Calabria il 40,5% in più. Rieti il 40% in più. Poi è Roma quella che fa più impressione. Ripeto, i dati sono del 2013. Tutta la nostra solidarietà chiaramente al sindaco Raggi. Non c'entra nulla la Raggi e parzialmente poco anche l'ex sindaco Marino. Roma, allora, a questo punto, raffrontando costi standard dei servizi che devi offrire e quanto costano effettivamente, il divario fra la spesa reale del comune, come si chiama in gergo, e il fabbisogno standard è di 500, era nel 2013 di 584.688.000 euro, mezzo miliardo alemanno. Ok? Dopodiché non voglio neanche capire come vengono spesi i soldi, dico solo che il servizio che devi offrire e quanto dovrebbe costare, il comune di Roma riesce a spendere mezzo miliardo in più del costo effettivo. Mi dispiace fare una cosa nord-sud, ma è così. Allora, a Milano il risparmio per garantire gli stessi servizi, fabbisogni, con il costo standard come riferimento, risparmiano 140.766.000 euro. A Vicenza risparmiano il 28%, cioè sono sotto del 28% rispetto al costo standard. Ad Ascoli Piceno del 15%, a Monza del 13%, a Bergamo del 12%, a Verona del 10%, cioè riescono a offrire gli stessi servizi pagando il 10% in meno del costo standard. A Verbania del 10%, a Parma del 9%, a Treviso del 9%. Ma come volume, come valore, il risparmio di Milano è quello maggiore, appunto 140 milioni, che si confronta con il mezzo miliardo almeno di sprechi in più di Roma. Allora, i capoluoghi efficienti sono 21, l'unico del sud è Andria, dove ogni anno, e complimenti al comune di Andria, risparmiano 2.400.000 euro. Però attenzione, perché, ripeto, c'è la categoria delle città che spendono meno del fabbisogno standard, ma non erogano il servizio, e te credo. Faccio un esempio: Napoli ha una spesa di 135 milioni di euro nel 2013, inferiore a quello che sarebbe dovuto costare, perché questa cosa del servizio standard nasceva 6 anni fa col famoso federalismo fiscale. C'era il costo standard delle siringhe, dei cerotti, del plasma, e anche un costo standard del servizio che devi erogare in base al numero di abitanti che hai, alla dimensione del comune, alla popolazione, e parliamo di servizi quali scuole, trasporti, smaltimento dei rifiuti, cultura, cioè non è che stiamo parlando di servizi particolarmente così articolati. Allora, dicevo, Napoli spende meno ma perché offre meno servizi. E di qualità bassa. Napoli infatti appartiene a questa categoria: spendi meno ma perché dai meno. 24 città, fra cui Campobasso, Bari, Barletta, Matera, Teramo, Pescara, Crotone e Cosenza. Poi c'è la categoria quelli che spendono di più, non erano con il servizio, li ho già raccontati: Caserta, Reggio Calabria, Rieti e Roma. Poi c'è una categoria tra coloro che sono sospesi, cioè spendono più di quanto dovrebbero ma riescono a garantire il servizio, anche maggiori servizi rispetto alla media. Sono 24 comuni, prevalentemente nel centro nord: Venezia, Pisa, Piacenza, Mantova, Ferrara, Forlì, Brescia, Asti, Lecco, Perugia, Lodi e Padova, con Brindisi anche e Salerno, a dimostrazione che non è un problema geografico, è un problema di amministrazione e di elettori. Tra l'altro, nel dossier si segnalava come nel 2013 continua a crescere la spesa per burocrazia, più 4% per burocrazia, capisci? Nell'era dei social network, dei device, dei tablet, più 4% in burocrazia, porca. Ma continua a risparmiare sui servizi sociali, e certo, no? Disabili e quant'altro, beh, chi se ne frega, meno 6,6, ambiente meno 1,4, istruzione meno 1%. Faccio notare che le tariffe dei servizi locali, biglietti, autobus e non solo, sono salite in questi 4 anni al quadruplo dell'inflazione, il 16%. Certo che quando poi scopri che 1.085 municipalizzate, società di proprietà dei comuni italiani, non hanno neanche un addetto, però hanno gli amministratori e i dirigenti, che il 65% delle 8.000 municipalizzate non gestiscono servizi pubblici. Ma che cavolo fanno allora? Cottarelli, dove sei? L'aveva tutto scritto nel libro bianco sulla spending review, l'ex commissario. Ti chiedi, no, quanto pesi anche questo. Ma detto ciò, chi mi sta scrivendo, ma la città grande, no, guarda, Milano e Roma sono l'esempio che la dimensione della città non implica necessariamente che tu spendi di più per servizi di cattiva qualità o che spenda necessariamente di più per erogare gli stessi servizi. È solo un problema di amministrazione, di magna magna, di interessi particolari, non particolari, che avviluppano o no una città, perché questi sono dati. Basta con la retorica, ma Roma è più grande, Milano è più piccola, non c'entra una mazza, anche perché avete visto che alcuni sono del sud, altre no, per cui è un problema di onestà dell'amministrazione e capacità dell'amministrazione comunale. Traffico e poi andiamo ai primi in classifica. Focus Economia. Andiamo al primo posto in classifica. Qualcuno mi scrive: ma Cottarelli fu estromesso perché applicare il suo libro bianco avrebbe causato una catastrofe elettorale. Allora, avrebbe sicuramente fatto perdere i voti di chi si avvantaggia di municipalizzate e quant'altro, poi magari avrebbe fatto avere i voti di chi vuole un'Italia più efficiente. Dopodiché, posso dirla tutta, ma non è che adesso uno governa, mi riferisco in quel caso all'ex premier Renzi, non dovrebbe governare solo sul breve periodo. È cosa buona e giusta eliminare le municipalizzate che non hanno neanche un addetto, eliminare le municipalizzate quando fanno concorrenza scorretta al privato e lasciare ai comuni i campi solo di loro pertinenza? Sì, allora falle fuori, basta, no? No, ha fatto fuori Cottarelli. Vabbè. Andiamo al primo posto. And the winner is... La Campania. Oggi la Campania, sono delle settimane in cui uno è più presente, altro meno. La Campania è, per la precisione, a Fragola. Questa è una vicenda che... Abbiassatemi un attimo la musica, ma non c'avevamo un tango della Maiella una volta, usavamo queste cose, perché per raccontarlo ho bisogno di un po' di tempo. Allora, c'è una stazione dell'alta velocità, sembra l'inizio di una favola, c'è una stazione dell'alta velocità da Fragola, sì, c'è una stazione dell'alta velocità a Fragola, perché nel progetto originario si pensava che l'alta velocità, che sarebbe poi dovuta scendere al sud, oltre, diciamo, Napoli, poteva saltare Napoli e fare a Fragola come stazione più veloce. Quindi, questo nel 2002. Il piccolissimo problema, dal 2003 in poi, l'alta velocità invece viene fatta fermare a Napoli, no, deve fermare anche in centro città. E già il ruolo di a Fragola come stazione solo per l'alta velocità, un po' come quella, la Transpadana di Reggio Emilia, che è fuori dalla città e serve varie province, viene meno. Ma io mi chiedo una cosa, io capisco che quella di Reggio Emilia l'ha fatta Calatrava, è bellissima, chi fa l'autostrada la vede, ma perché ad A Fragola hanno chiesto di farla fare alla scomparsa nota Archistar, Zaha Hadid? La CNN l'ha inserita tra le perle dell'architettura contemporanea, sì, è una perla nel senso che sta lì in mezzo a nulla come una perla. Allora, 40.000 metri quadrati, distribuiti su 4 livelli, 5.000 metri quadrati di vetrate, vuoti da vertigine, spazi in abbondanza per uffici, ma non si capisce che cavolo serva. Tant'è che il procuratore generale della Corte dei Conti, nella sua relazione di apertura, lui si chiama Michele Oricchio, ha detto: due piccoli problemi. L'investimento ci sembra eccessivo e c'è troppa superficialità nella spesa pubblica in Campania. Ma va. Secondo, dice Oricchio nella sua relazione, la chiamano pomposamente Porta del Sud, ma mi chiedo se sarà dimensionata al reale numero di viaggiatori che prenderanno da Fragola un treno per la Calabria o per Bari. E beh, tutti con l'alta velocità verso Bari, ma a parte che non mi ricordo la linea, ma intanto c'è la stazione e poi è già qualcosa, perché ti dà già l'idea dell'alta velocità. Allora, difficile pensare... Lo dice il procuratore generale Michele Oricchio con un pizzico di ironia, fa: difficile pensare a un traffico di viaggiatori da Victoria Station, o potremmo aggiungere da Gare du Nord, Gare de Lyon. No, vabbè. Quanto è costata la stazione fatta da Zaha Hadid? 60 milioni di euro per ora, perché ne occorreranno molti altri per completarla e connettere al territorio. Tra l'altro i Frecciarossa per il sud non sono più obbligati, cioè continuano a entrare a Napoli, quindi in questo momento non si capisce bene cosa passa. Passano un po' di Intercity, di Frecciargento, ma non andrà a sostituire la Napoli centrale. C'è però una cosa che mi manda ancora più in bestia e poi sto zitto. Non solo hanno fatto un'opera faraonica, dice ok, vi siete un po' allargati, no, non l'hanno collegata, non c'è la metropolitana che si ferma a 20 km di distanza, non c'è la circumvesuviana, che tra l'altro è classificata come la peggiore ferrovia italiana, solo progetti più o meno vaghi, tant'è che il sindaco di Afragola, Domenico Tuccillo, dice ma nemmeno il servizio su gomma, cioè c'è una cattedrale da 60, da almeno 60 milioni di euro che non ha neanche un pulmino, capito? Dice datemi le navette, i parcheggi, le attrezzature, niente, la nuova stazione non può rimanere lì come un'astronave abbandonata nei campi, e invece per ora è così. Quando sarà completa la tratta nord-sud o quella Napoli-Bari se ne riparleranno prima del 2022, in topi permettendo, complimenti alla stazione dell'alta velocità di Afragola. Oh, ragazzi, lo so che Afragola è la città di Bassolino, ma non è che faccia di origine, non è che per questo debba metterli assieme, però ma non è il problema che hai già fatto un'opera faraonica e vabbò. No, vabbò, ma niente, ma almeno connettila in modo che l'Interland possa dire invece che arrivare a Napoli centro, che avrebbe anche un senso, vado a Afragola. No, non la connetti nemmeno. Monica Zoli, amministratrice delegata di DZ Engineering, buonasera. Buonasera. Allora, resti con noi al GR24, poi ci racconta che cosa fate, quando siete nati, quante persone avete assunto. Come sempre lei ci serve per darci un po' di così entusiasmo dopo la sfinente e non solo questo classifica del venerdì. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Focus Economia. Allora, 18:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, Monica Zoli, dicevo, amministratrice delegata di DZ Engineering, buonasera di nuovo. Buonasera. Quanti anni ha, o meglio, insomma, quando avete fondato, insomma, quanti anni ha, madonna, non è mai bello, mi fermo, no, glielo chiedo più, quando avete fondato l'azienda, chi siete, chi vi ha aiutato e cosa fate? Allora, l'azienda è nata nell'aprile del 2011. Mm-hmm. E l'abbiamo acquisita, parlo al plurale perché la nostra è una realtà familiare, quindi mio padre che è diciamo in primis il più attivo, poi mio fratello ed io. E abbiamo acquisito per questo ramo d'azienda di un'azienda che operava nel settore da decenni. Quindi un'azienda storica che si trovava all'epoca in difficoltà, ora purtroppo si sta chiudendo il procedimento fallimentare, quindi non è andata bene. E da lì appunto ci siamo incontrati con questa cosa, la possibilità di acquisire un ramo d'azienda. Per fare sistemi integrati di illuminazione, telecomunicazione, audiovisivi. Sono sistemi per la videosorveglianza anche? Anche ma non solo, chiaramente la parte più scenica, più appariscente è quella dell'illuminazione, ma sotto appunto si parla di sistemi. Ma fate anche illuminazione, diciamo, oltre che per la videosorveglianza, anche artistica, diciamo, quelle sì, per... Sì, assolutamente, infatti, diciamo, per essere un po' più esplicita, cioè insomma un po' più chiara rispetto a quello che facciamo, magari faccio qualche esempio. Ecco, mi dica che contratti avete vinto. Allora, ad esempio, in ambito italiano, noi lavoriamo sia in Italia che all'estero, abbiamo illuminato ad esempio il Castel del Monte ad Andria, in Puglia, che è uno dei monumenti simbolo italiano. E all'estero? All'estero il nostro lavoro più emblematico è quello che facciamo e disfiamo ogni anno. Ed dove? È l'illuminazione e sistema integrato di videosorveglianza del circuito cittadino di Singapore. Cioè il Gran Premio di Singapore, giusto? Esattamente, esattamente. Quante persone siete, quante avete assunto e chi vi ha aiutato come finanziamenti? Allora, siamo partiti con un gruppo di 18, quindi molto molto ridotto, di tecnici, ingegneri e operai specializzati, che però ovviamente E da dove li avete presi? Dalle liste di mobilità questa azienda di appunto da cui abbiamo rilevato il ramo d'azienda. E poi nel tempo comunque abbiamo avuto, siccome abbiamo più che raddoppiato il fatturato dei primi anni, abbiamo assunto poi altre 7 persone, attualmente siamo a 25. Questo numero qua poi ovviamente nei momenti appunto clou di grandi progetti come quello di Singapore viene integrato con del lavoro temporaneo, sia italiano che dei posti dove appunto lavoriamo, e nel caso di Singapore arriviamo anche oltre le 100 unità. Quanto fatturate? E mi dica, le banche vi hanno aiutato, no? Allora, noi fatturiamo, l'ultimo dato di 6 milioni e mezzo di fatturato, quindi siamo ovviamente una realtà piccola. In realtà abbiamo, diciamo, questa avventura l'abbiamo iniziata con capitale nostro, non abbiamo fatto... Ecco, ma per concludere, ma perché non avete chiesto, che non vi serviva, oppure non avevate avuto risposte positive? Ma in realtà servire serve anche, ma avevamo dei tempi di necessità di tempi molto molto rapidi che per altri motivi insomma non abbiamo preferito utilizzare questa strada. Poi magari noi abbiamo altre attività dove chiaramente insomma il lavoro lo facciamo anche con l'aiuto del sistema bancario. In bocca al lupo a lei, ai soci e alle 25 persone che lavorano in piano. Il nostro obiettivo è anche quello di crescere, abbiamo progetti veramente ambiziosi, quindi questo qui è proprio una cosa di una fase di passaggio di un percorso che insomma abbiamo ben altri obiettivi. Bene, bene, e complimenti e in bocca al lupo veramente per lei, dicevi 25 dipendenti, nella speranza che aumentino anche i dipendenti oltre che il fatturato, grazie appunto a Monica Zoli, amministratrice delegata di DZ Engineering. Allora, la borsa, vi dovete accontentare di me, più 3,80% Leonardo dopo i conti, il miglior titolo è nel più 0,60, A2A più 0,60 della vicenda Vivendi Media, se l'abbiamo già detto ampiamente in apertura, lo dico che mi sta scrivendo, la procura vede l'accusa di aggiotaggio nei confronti sia di Bolloré che dell'amministratore legato Depuy Fontaine di Vivendi. L'accusa qual è? Avere rotto con l'accordo già preso con Mediaset su Premium per acquisire Premium, in modo che il titolo Mediaset potesse calare e loro potessero poi, e Vivendi potesse comprarlo a prezzi più bassi nella scalata direttamente a Mediaset. Questa è l'accusa di aggiotaggio spiegata in breve. Dicevo, invece, i bilanci non hanno convinto gli operatori sul titolo Saipem, meno 6,80%, c'è incertezza soprattutto per il portafoglio ordini 2017-2018, lo spread a 200 punti non aiuta le banche, penso a Banco BPM meno 6,60, ma anche Banca Mediolanum meno 2,5% come UbiBank, Unipol meno 2,5%, Intesa meno 2,20%, Unicredit completato l'aumento di capitale meno 2,20%, Fiat Chrysler perde il 3,15%. Ci sono tra l'altro a indebolire le banche oggi anche i risultati negativi di Royal Bank of Scotland, che ha chiuso ancora in rosso per il nono anno consecutivo, banca salvata dal governo britannico, perde quasi 7 miliardi di sterline nel 2016. Pensate che noi abbiamo Monte dei Paschi, ma in Gran Bretagna hanno Royal Bank of Scotland. Royal Bank of Scotland ha perso in 9 anni oltre 58 miliardi di sterline, mal contati sono 65 miliardi di euro a naso, adesso a braccio più che a naso. E invece dicevo, Mediaset e Vivendi deboli, ma non in maniera significativa, meno 1,34% Mediaset. Segnalo, come già ricordavamo in apertura, che dopo i conti che ci ha raccontato in diretta ieri Pietro Salini di Salini in Pregilo, il titolo oggi cresce del 5% ed è tra i migliori in assoluto, dopo EMS più 20, TAS più 15, Leone Film Group più 6%, Elettra Investimenti più 4,5%, fronte opposto Gequity meno 12,70, Sintesi meno 12,40, Gala meno 7%. Allora, c'è un manager, ci sono tanti bravi manager in questo paese, per carità, però noi usiamo questi top manager molto spesso, lo facciamo da anni, per raccontare o dare anche dei consigli a chi è in ascolto, e cerchiamo di prendere, a seconda delle caratteristiche, i manager che ci sembrano più emblematici. Perché faccio questo brevissimo preambolo? Perché c'è un manager che ha guidato per tantissimi anni Luxottica, proprio l'altro ieri parlavamo del Mido e del ruolo di Luxottica, e ne ha guidato l'internazionalizzazione, che non vuol dire la delocalizzazione, vuol dire aprire anche punti vendita oltre che fare acquisizioni su base internazionale, e poi è passato a fare l'amministratore delegato di Italy, che molti di voi conoscono. È l'idea che ha avuto Oscar Farinetti, a uno può piacere Oscar Farinetti o no per le sue idee politiche, ma che Italy sia stata un'idea geniale mi sembra fuori discussione. Tra l'altro è tuttora a New York, è uno dei posti più visitati nella città, l'Italy. Sono due adesso gli Italy a New York, Chicago, Boston, hanno anche un'altra sede. Poi ce n'è uno in Brasile, uno in Germania, uno in Turchia, due in Corea del Sud, tre in Giappone, due negli Emirati Arabi, uno in Qatar, uno in Arabia Saudita, e prossime aperture, già lo citammo, Russia, Los Angeles e Svezia. 5.500 dipendenti, 25 milioni di clienti che hanno visitato i vari stores. In Italia sono 30 e appunto 20 nel resto del mondo. Allora ringrazio per averci aggiunto in collegamento, tra l'altro è appena rientrato da San Paolo, Andrea Guerra, amministratore delegato di Italy. Buonasera Guerra. Buongiorno, eccomi qua. Allora, dopo buongiorno a San Paolo, comunque va bene anche buongiorno. Buonasera, bisogna essere ottimisti. Ecco, sentiamoci dopo il traffico. 349-238-6666, vorrei capire, nella sua esperienza, prima in Luxottica e adesso in Italy, che analisi ci può dare sulla forza e la capacità del Made in Italy, quello che manca alle nostre imprese però quando vanno all'estero, e se anche lei, girando tra Sud America, Nord America, Europa, Asia, Russia, sente soffiare forti i venti del protezionismo oppure no, oppure solo un eccesso mediatico relativo a Trump. Focus Economia. Allora Guerra, lei ha fatto 10 anni in Luxottica, appunto, e sotto la sua gestione il titolo è cresciuto da 14 euro a 40 euro, ma soprattutto ha seguito l'internazionalizzazione di Luxottica e sta seguendo anche quella di Italy. Scelga lei l'ordine con cui rispondere alle mie domande, cioè partiamo dagli errori e dalla voglia di Made in Italy che c'è, ma se lei la registra nel modo in cui noi la raccontiamo, ma anche gli errori che fa ancora il nostro Made in Italy, poi veniamo ai venti così protezionistici. Ma prima di tutto il Made in Italy piace, è sempre piaciuto e sempre piacerà, per cui credo che questo qui sia un dato di fatto. Il secondo sono le nostre aziende del Made in Italy, e secondo me qualche buona notizia l'abbiamo avuta negli ultimi 12-24 mesi. Cioè, se l'anno scorso le esportazioni italiane hanno fatto il record, una ragione ci sarà, e non solo secondo me abbiamo fatto il record, ma se uno va un po' nel dettaglio di questi numeri, il numero di paesi che abbiamo raggiunto è sempre stato, è in aumento forte, e dall'altra parte anche la diversificazione è cresciuta, per cui qualche buon elemento c'è. Per diventare dei protagonisti, secondo me, c'è ancora un salto da fare. E quale? Secondo me è un salto, se dovessi dirlo in una sola parola, direi culturale, nel senso che c'è bisogno ancora di più di aziende un pochino più grandi, c'è bisogno di aziende in cui dei meravigliosi imprenditori si fidano di organizzazioni più articolate, più diverse. Sono aziende, cioè dei manager? Delle organizzazioni, dei manager, anche dei, come dire, dei membri delle famiglie, non voglio, però sicuramente avere una voglia di maggiore diversità e che non è la fedeltà l'unico principio, no, in cui ci basiamo. Aziende che vogliono essere più aperte nel capitale. Ma lei le nuove generazioni, visto che qua abbiamo avuto un problema di passaggio generazionale non da poco, e Luxottica lo dico in qualche modo lo testimonia, le nuove generazioni hanno, diciamo, introiettato questi temi? Cioè, io posso immaginare che i padri, dopo aver creato l'impresa, vedessero, non ce la facessero proprio a fare un accordo con il nemico storico, il concorrente storico, così. Ma nei giovani lei vede una maggior capacità di capire che l'importante è l'obiettivo, e quindi ci si può anche mettere d'accordo, arrivare ad accordi commerciali, accordi anche di carattere societario, o no? A macchia di leopardo. A macchia di leopardo, secondo me, si comincia a vedere, e quando vediamo anche questi numeri evidentemente qualcosa succede, perché per arrivare a fare questi numeri significa che ci sono aziende un pochino più strutturate, che hanno reso il capitale un pochino più robusto, che hanno trovato un equilibrio tra il capitale e i finanziamenti corretto, che hanno speso sulle esperienze, per cui sui marchi. Cioè, è evidente che qualcosa sta succedendo, non abbastanza e non abbastanza velocemente. Senta, questo, ma è più facile vendere mozzarella, prodotti, diciamo, salumi, prodotti, la pasta di qualità con Italy, o vendere gli occhiali, le montature? Io penso che la cosa fondamentale è che, prima di tutto, noi andando fuori vendiamo un'esperienza, che sia occhiali, tavoli, mozzarelle. La cosa fondamentale è che l'Italia si porta dietro un'esperienza, e allora, nel momento in cui noi sappiamo trasmettere questa esperienza italiana, tutto diventa molto facile. Nel momento in cui noi vogliamo vendere un prodotto e scappare a casa con i soldi, è un disastro. Senta, Guerra, lei ha provato nel frattempo, tra Luxottica e Italy, a fare consulente dell'allora premier Renzi. Lei ha anche chiarito, insomma, perché se n'è andato, ma secondo lei la sensibilità poi politica, perché, insomma, la Francia è un modello, ma anche la Germania, nell'aiutare, noi abbiamo spesso elogiato per esempio il ministro Calenda. Io non ho nessun rapporto particolare con Calenda, non me ne frega nulla, però se vedo uno che lavora bene lo dico. È aumentato, o ancora anche qui sempre con sta macchia di sto leopardo? No, io sono convinto che lì un bel po' di lavoro è stato fatto. Penso che Renzi sia criticabile, no, da tanti punti di vista, però un lavoro sul business, sulla vendita del business italiano, sulla vendita del Made in Italy, ha fatto un lavoro sicuramente giusto. Ministro Calenda ha fatto un lavoro con anche tutto il mondo di CDP, tutto il mondo di SACE, con tutta una riorganizzazione dell'ICE. Sicuramente non sono mondi che oggi sono all'avanguardia, ma rispetto a 10 anni fa, oggi siamo nettamente meglio. E allora, se lei dovesse dare il titolo, perché poi vorrei capire invece sulla parte protezionistica, che cosa direbbe agli imprenditori in ascolto che operano, per esempio, Milano, diciamo, con successo, è riuscita a mettere assieme le tre fiere del settore, pelle, moda e occhialeria, e quindi calzatura, pelle, moda e occhialeria, nella stessa settimana. Che cosa manca fuori? C'è un eccesso di provincialismo? C'è una voglia a non mollare certi modelli? Non so, io mi ricordo che quando ci incontrammo una volta a Shanghai, ma tantissimi anni fa ormai, lei mi spiegò che i 130 punti vendita che stavate aprendo come Luxottica in Cina, 130, vi servivano solo a presidiare le aree principali, per dare il tema delle dimensioni. Che cosa manca ancora come titolo? Il ritorno al discorso di prima, manca un po' di prospettiva, cioè quando uno ha in mente il Brasile e pensa che il Brasile sia uno dei posti più straordinari in cui andare a fare business, perché c'è una classe media ricca, perché c'è di nuovo un inizio di buon sviluppo, nel momento in cui uno fa business in Brasile deve sapere che il Brasile in realtà sono 20 stati, che quasi ci sono le dogane tra uno stato e l'altro, che la tassazione è molto complicata, che il lavoro burocratico interno, e per cui ci vuole tempo, ci vuole investimenti, ci vogliono persone che sappiano vivere questi paesi come se fosse casa loro. Per cui ripeto, secondo me c'è un'evoluzione culturale che con la crisi italiana siamo riusciti a mandare avanti, ma non è ancora sufficiente per essere protagonisti nel mondo. Ma lei, questi giovani che non si vogliono spostare, polemica di due settimane fa, non vogliono cambiare città. Ma non è vero. Poi di nuovo penso che le medie, io penso che questo nuovo mondo di distruzione creativa in cui sono venuti giù tanti muri, in cui sono nati nuovi tanti business, le medie sono proprio le medie del pollo. Ok, e a proposito di questo nuovo mondo, io posso capire che l'America abbia con Trump un atteggiamento, diciamo, protezionista, perché ha problemi a esportare. Non lo capisco, l'ho detto mille volte, per l'Italia, visto che noi dovremmo puntare su sempre maggiore export, ma insomma, lei questo sentimento, per ora anche non tradotto sempre in leggi, di neoprotezionismo lo vede, o c'è una sovraesposizione, giustamente, anche di Trump, ma il resto del mondo non sta tirando su barriere? Perché voi avete, per aprire in Russia, nonostante l'embargo, avete dovuto fare un accordo, tra l'altro, con un partner si chiama Vedmosti Yuri, si chiama Yuri Tetra, no? Se ben ricordo. Prima di tutto penso che se l'Italia vuole avere un ruolo nel futuro, con tutte le pressioni e gli sviluppi demografici che ci sono nel mondo, l'unica opportunità che ha è di diventare veramente una piattaforma sempre più aperta. E per cui quello credo che sia veramente l'unica opportunità che abbiamo, per cui esattamente dall'altro lato del protezionismo, che significa anche avere a bordo una popolazione che parla più di una lingua con facilità. Penso che questa sia veramente l'unica grande opportunità nel lungo periodo che abbiamo. Ad oggi io quello che vedo è un mondo che è sufficientemente in forma. Troppo spesso in Italia ci diciamo che il mondo è in crisi, ma se l'esportazione italiana ha fatto il record, se l'esportazione tedesca ha fatto il record, significa che i mercati di sbocco in giro per il mondo ci durante sono. Il 2016 tanto male non sono andati, e non mi sembra di dire che neanche nel 2017. Per chiudere, lei ha figli? Sì. Che età hanno, se posso chiedere? Dai 20 ai 15. Ecco, lei che cosa ha dato come indicazione ai suoi figli, visto che poi di questo stavamo parlando? Chiaro, come dicevi, i figli di guerra sono dei privilegiati. Ho capito, ma che indicazione ha dato? Dopodiché... Allora, prima di tutto, il mestiere dei genitori è il più complicato al mondo. E la cosa fondamentale, secondo me, la cosa fondamentale è dargli gli strumenti per star bene in questo mondo. E poi che andassero felici dove vogliono stare, a casa loro, in giro. Ma quando mi chiudo su questo, ma che uno strumento, due strumenti? Da essere cittadini del mondo, saper accettare tutte le culture, pensare che la diversità sia la cosa più bella in assoluto. Allora, grazie. Può essere d'accordo, vedo molti messaggi, 349-238-6666, può non essere d'accordo, però sta parlando un manager, e quindi uno magari lo ascolta. Poi sappiamo tutti che ci sono anche ascoltatori con la verità rivelata in mano. Io ringrazio intanto Andrea Guerra, amministratore delegato di Italy, e poi come sempre Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza anche questa settimana al programma e in studio. Auguro a voi un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando, e noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.